Coraline di Neil Gaiman. Capitolo primo. Coraline scoprì quella porta poco dopo aver traslocato con la famiglia. La casa era molto vecchia, con una soffitta, una cantina e un giardino pieno di erbacce e di grossi e vecchi alberi. Date le sue notevoli dimensioni, però, non era occupata esclusivamente dalla famiglia di Coraline. I suoi ne possedevano solo una parte. Nel resto dell'edificio abitavano altre persone. Nell'appartamento del pian terreno, sotto quello di Coraline, vivevano Miss Pink e Miss Forcible. Le due donne erano anziane e grassocce e occupavano l'appartamento in compagnia di alcuni vecchi terrier scozzesi che portavano nomi come Hamish, Andrew e Jock. In passato Miss Pink e Miss Forcible erano state attrici e Miss Pink in persona lo aveva rivelato a Coraline, non appena si erano conosciute. Vedi Caroline, le aveva detto Miss Pink, sbagliando a pronunciare il nome. Sia io che mia sorella Forcible eravamo attrici famose ai nostri tempi. Calcavamo le scene, tesoruccio. Ehi, togli quella torta di frutta da sotto il muso di Hamish, avrà mal di pancia per tutta la notte. Mi chiamo Coraline, non Caroline. Coraline, le aveva fatto notare la bambina. Nell'appartamento sopra quello di Coraline, nel sottotetto, viveva un vecchio pazzo con un paio di baffoni enormi. Le aveva detto che stava ammaestrando un circo dei topi, ma non permetteva a nessuno di vederlo. Un giorno, piccola Caroline, quando tutto sarà pronto, il mondo intero assisterà alle meraviglie del mio circo. Mi domanderai perché adesso non puoi vederlo, me lo hai appena chiesto, vero? No, aveva risposto Coraline sottovoce. Le ho chiesto di non chiamarmi Caroline, il mio nome è Coraline. La ragione per cui adesso non puoi vedere il mio circo, aveva detto l'uomo del piano di sopra, è che i topi non sono ancora pronti e non hanno provato abbastanza. Inoltre si rifiutano di suonare le canzoni che ho scritto per loro. Tutte le canzoni che ho scritto per i topi fanno un pa, ma il topo bianco si ostina a suonare sottilmente tu-do-du-du. Sto pensando di metterli alla prova con diversi tipi di formaggio. Secondo Coraline, quel circo di topi non esisteva affatto. Anzi, era convinta che il vecchio si fosse inventato tutto. Il giorno dopo il trasloco, Coraline andò in esplorazione. Esplorò il giardino. Era davvero grande. In fondo, nel punto più lontano, c'era un vecchio campo da tennis, ma in casa nessuno giocava a tennis, così il campo era pieno di buche e la rete era addirittura decrepita. C'era anche un roseto pieno di arbusti striminziti e coperti di polvere. C'era un giardino giapponese tutto di rocce. C'era un cerchio delle fate fatto di funghi velenosi, marrone e umidicci, che puzzavano tremendamente se uno ci andava a finire sopra per sbaglio. C'era anche un pozzo. Il giorno in cui la famiglia di Coraline si era trasferita lì, Miss Pink e Miss Forcible si erano subito premurate di spiegare alla bambina quanto fosse pericoloso quel pozzo e l'avevano messa in guardia perché ne stesse alla larga. Perciò Coraline non aveva perso tempo e aveva subito cominciato a cercarlo per sapere con precisione dove si trovasse e poterne stare effettivamente alla larga. L'aveva trovato il terzo giorno, in un prato pieno di erbacce accanto al campo da tennis, dietro un boschetto. Un muretto di mattoni basso e circolare, quasi nascosto dall'erba alta. Il pozzo era stato coperto con alcune tavole per impedire che qualcuno ci cadesse dentro. In una delle assi c'era un piccolo buco e Coraline aveva trascorso un pomeriggio intero a gettarci dentro ghiande e sassolini e ad aspettare, canticchiando, di sentire il plop che producevano toccando l'acqua. Era anche andata in cerca di animali. Aveva trovato un porcospino, una pelle di serpente, ma non il serpente, una roccia che pareva proprio una rana e poi un rospo che pareva proprio una roccia. C'era anche un altezzoso gatto nero che si sedeva sui muretti e sulle ceppaglie per osservarla, ma che sgattaiolava subito via se lei gli andava vicino e cercava di giocarci. Aveva trascorso così le prime 2 settimane nella nuova casa, esplorando il giardino e i dintorni. Sua madre la chiamava all'ora di pranzo e di cena e Coraline doveva assicurarsi di uscire ben coperta, perché quest'anno l'estate era davvero freschetta. Tuttavia, ogni giorno uscì ed esplorò, finché cominciò a piovere e fu costretta a restare in casa. «E adesso che faccio?» domandò. «Leggi un libro», le rispose sua madre. «Guarda un video, gioca con i tuoi giocattoli, va a dare fastidio a Miss Pink o Miss Forcible o a quel vecchio pazzo che abita sopra di noi». «No», disse Coraline, «non mi va di fare queste cose, voglio esplorare». «A essere sincera, non mi interessa quello che fai», disse sua madre, «purché tu non metta in disordine». Coraline andò alla finestra e guardò la pioggia che cadeva. Non era una pioggia del tipo che ti permette di uscire, ma dell'altro tipo, cioè quella che scroscia violentemente dal cielo e tocca terra schizzando dappertutto. Era il tipo di pioggia che fa sul serio, e ciò che stava facendo in quel momento era trasformare il giardino in una specie di zuppa umida e fangosa. Coraline aveva guardato tutti i video, si era stufata dei giocattoli e aveva letto tutti i libri che possedeva. Accese la televisione. Passò da un canale all'altro, ma c'erano solo uomini in giacca e cravatta che parlavano del mercato azionario e programmi sportivi. Alla fine trovò qualcosa da guardare. La seconda parte di un programma di storia naturale su una faccenda che si chiamava mimetismo e vide animali, uccelli e insetti che si mimetizzavano tra le foglie e i ramoscelli o tra gli altri animali per fuggire da cose o creature che avrebbero potuto far loro del male. Il programma le piaceva, ma finì troppo presto e venne seguito da un altro su una fabbrica di dolci. Era arrivato il momento di parlare con suo padre. Il papà di Coraline era in casa. Tutti e due i genitori lavoravano con il computer, però perciò passavano molto tempo in casa. Ciascuno aveva il suo studio personale. «Ciao Coraline», le disse suo padre quando la vide entrare nello studio, ma non si voltò verso di lei. «Uffa», disse Coraline, «piove!» «Eh già», replicò suo padre, «a catinelle». No, è una semplice pioggia, posso andare fuori? Tua madre che dice? Dice, con un tempo così non esci di sicuro, Coraline Jones. Allora no. Ma io voglio continuare la mia esplorazione. Bene, puoi esplorare l'appartamento, le suggerì suo padre. Tieni, ecco di un foglio e una penna. Conta tutte le porte e tutte le finestre. Fai un elenco di tutte le cose blu. Organizza una spedizione per trovare lo scaldabagno e lasciami lavorare in santa pace. Posso andare in salotto? Il salotto era la stanza in cui i Jones tenevano i mobili costosi e scomodi che la nonna di Coraline aveva lasciato alla sua morte. A Coraline non era permesso entrarci, nessuno ci entrava, a fin di bene, se non metterai in disordine e se non toccherai niente. Coraline ci pensò su, poi prese carta e penna e cominciò a esplorare l'appartamento. Trovò lo scaldabagno, era in un armadio a muro della cucina. Contò tutte le cose blu, 153. Contò le finestre, 21. Contò le porte, 14. Delle porte che aveva trovato, 13 si aprivano e si chiudevano normalmente. La 14esima, piuttosto grande e in legno marrone intagliato, nell'angolo più lontano del salotto, era chiusa a chiave. «E da quella porta dove si va?» domandò a sua madre. «Da nessuna parte, tesoro. Dovrà pur portare da qualche parte». La madre scosse la testa. «Vieni a vedere», disse a Coraline. Allungò la mano e prese un mazzo di chiavi da sopra la cornice della porta di cucina. La esaminò e ne scelse una, la più vecchia, la più grossa, la più nera, la più arrugginita. Quindi andarono in salotto. La mamma infilò la chiave nella serratura e la girò. La porta si spalancò. Aveva ragione, non portava da nessuna parte. Dava su un muro di mattoni. Quando questa casa non era ancora divisa, disse la madre di Coraline, questa porta conduceva da qualche parte. Quando poi hanno deciso di dividere l'edificio in appartamenti, hanno semplicemente deciso di murarla. Dall'altra parte c'è un appartamento libero, ancora in vendita. Richiuse la porta e rimise il mazzo di chiavi sulla cornice della porta di cucina. Non hai dato i giri con la chiave, osservò Coraline. Sua madre si strinse nelle spalle. Perché dovrei? Domandò. Tanto non porta da nessuna parte. Coraline non disse nulla. Ormai era quasi buio e la pioggia continuava a cadere, tamburellando sui vetri delle finestre e offuscando i fari delle macchine che passavano nella strada davanti a casa. Il padre di Coraline smise di lavorare e preparò la cena. Coraline era disgustata. «Papà», disse, «un'altra delle tue ricette!» «Stufato di patate e porri, guarnito con dragoncello e gruviera fusa», ammise suo padre. Coraline sospirò, quindi andò al freezer e tirò fuori una pizzetta e patatine fritte da riscaldare al microonde. «Lo sai che le ricette non mi piacciono», disse al padre, mentre la sua cena continuava a girare nel forno a microonde e i numeretti rossi sul display facevano il conto alla rovescia per tornare allo zero. «Se lo assaggiassi, magari il mio stufato ti piacerebbe», disse il papà di Coraline, ma lei fece segno di no con la testa. Quella notte Coraline giaceva sveglia nel suo letto. Aveva smesso di piovere e lei si era quasi addormentata quando qualcosa cominciò a fare. Si tirò su a sedere nel letto. Qualcosa fece crack. Coraline scese dal letto e guardò verso l'ingresso, ma non notò niente di strano. Percorse tutto il corridoio. Dalla stanza dei genitori proveniva un sommesso russare, suo padre, e un saltuario mormorio nel sonno, sua madre. Cora Nancy chiese se l'avesse sognato quel rumore che, avesse senti che aveva sentito. Qualcosa si mosse, poco più che un'ombra, che filò rapidamente in fondo all'ingresso buio, come un piccolo frammento di notte. Si augurò che non fosse un ragno. I ragni mettevano Coraline in uno stato di profonda agitazione. La sagoma nera entrò in salotto e Coraline, con un po' di nervosismo, le andò dietro. La stanza era buia. L'unica luce veniva dall'ingresso e Coraline, che era ferma sulla soglia della stanza, gettava un'ombra enorme distorta sulla moquette del salotto. Sembrava una gigantesca lampanata. Si stava giusto chiedendo se fosse il caso di accendere la luce quando vide la sagoma nera uscire lentamente da sotto il divano. Si fermò per un istante, poi sfrecciò in silenzio sulla moquette, in direzione dell'angolo più remoto dove non c'erano mobili. Coraline accese la luce. In quell'angolo non c'era niente, nient'altro che una vecchia porta aperta su un muro di mattoni. Era sicura che sua madre avesse richiuso la porta, che adesso però era leggermente aperta, giusto uno spiraglio. Coraline si avvicinò e guardò dentro. Non c'era niente, solo un muro di mattoni rossi. Chiuse la vecchia porta di legno, spense la luce e tornò a letto. Sognò sagome nere che strisciavano da una parte all'altra, schivando la luce, fino a concentrarsi tutte insieme sotto la luna. Piccole sagome nere con occhietti rossi e aguzzi denti gialli che cominciarono a cantare. Siamo piccine, ma molte, siamo molte, ma piccine. Eravamo qui prima di voi, saremo qui anche poi. Le loro voci erano un sussurro acuto e vagamente lamentoso, e a Coraline mi misero addosso una grande agitazione. Poi sognò degli spot pubblicitari e finalmente smise di sognare. Coraline di Neil Gaiman, capitolo secondo. Il giorno dopo aveva smesso di piovere, ma la casa era avvolta da una fitta nebbia bianca. Esco a fare una passeggiata, disse Coraline. Non allontanarti, le raccomandò sua madre, e copriti bene. Coraline si mise il cappotto blu con il cappuccio, la sciarpa rossa e gli stivali gialli di gomma, e uscì. Miss Pink stava portando a spasso i cani. Ciao, Caroline, le disse. Che tempaccio! Eh già, disse Coraline. Una volta ho interpretato il ruolo di Porzia, disse Miss Pink. Miss Forcible non fa che parlare della sua Ofelia, ma era la mia Porzia che venivano a vedere quando calcavamo le scene. Miss Pink era infagottata in strati e strati di maglioni e cardigan, il che la faceva sembrare più bassa e grassa che mai. Assomigliava a un grosso uovo lanoso. Portava occhiali con lenti talmente spesse che i suoi occhi sembravano enormi. Mi mandavano sempre i fiori in camerino, altro che, disse. Chi? Domandò Coraline. Miss Pink lanciò una cauta occhiata circolare, guardandosi prima dietro una spalla, poi dietro l'altra, sbirciando attraverso la nebbia come se qualcuno potesse sentirla. Gli uomini, sussurrò. Quindi diede uno strattone ai guinzagli dei cani e riprese la strada di casa. Coraline proseguì la sua passeggiata. Aveva fatto tre quarti di giro intorno alla casa quando vide Miss Forcible, ferma davanti alla porta dell'appartamento in cui viveva con Miss Pink. Hai per caso visto Miss Pink, Caroline? Coraline le rispose che sì, Miss Pink era fuori con i cani. Speriamo che non si perda, altrimenti le verrà il fuoco di Sant'Antonio, vedrai, disse Miss Forcible. Bisogna essere veri esploratori per trovare la strada con questa nebbia. Io sono un'esploratrice, disse Coraline. Ma certo, tesoruccio, disse Miss Forcible, cerca di non perderti. Coraline continuò a passeggiare nel giardino ammantato di nebbia grigia. Stava attenta a non perdere mai di vista la casa. Dopo circa 10 minuti di cammino si ritrovò esattamente al punto di partenza. I capelli le cadevano flosci e bagnati davanti agli occhi e aveva il viso umido. «Uè, Caroline!» gridò il vecchio pazzo del piano di sopra. Oh, salve! Rispose Coraline. Con quella nebbia riusciva a scorgerlo appena. L'uomo scese le scale esterne che portavano dall'appartamento di Coraline al suo. Le scese molto lentamente. Lei lo aspettò in fondo alle scale. Ai topi la nebbia non piace, le disse. Gli fa afflosciare i baffi. Neanche a me piace molto, ammise Coraline. Il vecchio si chinò su di lei, avvicinandosi tanto da farle il solletico all'orecchio con la punta dei baffi. I topi ti mandano un messaggio, sussurrò. Coraline non sapeva che cosa dire. Il messaggio è il seguente: non varcare quella porta. E si interruppe. Ti dice niente? No, rispose Coraline. Il vecchio alzò le spalle. Che buffi i topi! Non fanno che prendere fischi per fiaschi. Sbagliano anche il tuo nome, sai. Continuano a chiamarti Coraline, non Caroline. Niente Caroline. Raccolse una bottiglia di latte dal primo gradino e cominciò l'arrampicata verso la sua mansarda. Coraline entrò in casa. La madre stava lavorando nel suo studio, che profumava di fiori. E adesso che faccio? Chiese Coraline. Quando è che ricomincia la scuola? Le domandò sua madre. La settimana prossima. Uff, sbuffò sua madre. Immagino che dovrò comprarti dei vestiti nuovi. Ricordamelo, tesoro, altrimenti me ne dimentico. Mi tornò a digitare qualcosa sulla tastiera del computer. E adesso che faccio? Chiese di nuovo Coraline. Fa un disegno. Le passò un foglio di carta e una penna sfera. Coraline provò a disegnare la nebbia. Dopo 10 minuti il foglio bianco era ancora bianco, a parte nebbia, scritto in un angolo a lettere leggermente ondeggianti. Con un leggero grugnito passò il foglio a sua madre. Molto moderno, tesoro, disse lei. Coraline sgattaiolò in salotto e cercò di aprire la porta nell'angolo. Era di nuovo chiusa a chiave. Immaginò che fosse stata la madre a chiuderla e si strinse nelle spalle. Coraline andò da suo padre. Stava scrivendo al computer con la schiena rivolta verso la porta. Vattene, le disse allegramente quando lei entrò nella stanza. Mi annoio, disse Coraline. Impara a ballare il tip-tap, le suggerì senza voltarsi. Coraline scosse la testa. Perché non giochi con me? Gli chiese. Ho da fare, rispose lui. Lavoro, aggiunse. Ancora non si era voltato a guardarla. Perché non vai a dare fastidio a Miss Pink e a Miss Forcible? Coraline si infilò il cappotto, si tirò su il cappuccio, uscì di casa, scese le scale e suonò il campanello di Miss Pink e Miss Forcible. Sentì un frenetico bau bau e i terrier scozzesi che scorrazzavano nell'ingresso. Dopo un po', Miss Pink andò ad aprire. Oh, sei tu, Caroline, disse. Angus, Hamish, Bruce, accuccia, tesorucci. È Caroline. Accomodati, tesoro, ti andrebbe una tazza di tè. L'appartamento odorava di cera per mobili e di cani. Sì, volentieri, rispose Coraline. Miss Pink la fece accomodare in una stanzetta piena di polvere che lei chiamava salottino. Alle pareti erano appese fotografie in bianco e nero di belle donne e locandine teatrali incorniciate. Miss Forcible era seduta su una delle poltrone e ci dava sotto con il lavoro a maglia. Miss Pink versò il tè in una tazzina di sottile porcellana rosa con tanto di piattino e le offrì un biscotto con l'uvetta. Miss Forcible guardò Miss Pink, prese il lavoro a maglia e fece un respiro profondo. Comunque, April, come stavo dicendo, dovrai ammettere che il vecchio cane è ancora pieno di spirito, disse. Miriam, cara, nessuna di noi due è più giovane come una volta. Madama Arcati, replicò Miss Forcible. La Bunny e Romeo, Lady Bracknell, parti di caratterista, non possono mica mandarti in pensione dal palcoscenico. Adesso sì che siamo d'accordo, Miriam, disse Miss Pink. Coraline si chiese se le due donne si fossero dimenticate di lei. Parlavano di cose senza senso, così pensò che fosse in corso una discussione, una di quelle discussioni vecchie e rassicuranti come una poltrona, il genere di discussione in cui nessuno vinceva e nessuno perdeva per davvero, ma che potevano continuare all'infinito, bastava che le due parti lo volessero. Coraline continuò a sorseggiare il suo tè. Se vuoi, ti leggo le foglie sul fondo della tazza, le disse Miss Pink. Come? Disse Coraline. Le foglie di tè, cara, ti leggo il futuro. Coraline porse la sua tazza a Miss Pink e lei diede una miope sbirciatina alle nere foglie di tè che si erano depositate sul fondo, quindi storse le labbra. Sai, Caroline, disse dopo un po', sei in grave pericolo. Miss Forcible sbuffò e mise giù il lavoro a maglia. Non essere sciocca, April, smettila di spaventare la bambina. I tuoi occhi ormai sono andati. Passami quella tazza, bambina mia. Coraline portò la tazza a Miss Forcible e lei ne esaminò attentamente il contenuto. Scosse la testa e tornò a guardare i fondi. Oh, cara, disse. Avevi ragione tu, April, è in pericolo. Lo vedi, Miriam? Disse Miss Pink in tono trionfale. I miei occhi sono buoni, come. E che pericolo sarebbe? Domandò Coraline. Miss Pink e Miss Forcible la fissarono inespressive. Non lo dicono, rispose Miss Pink. Le foglie di tè non sono granché affidabili, davvero no. Vanno bene per la situazione in generale, ma non per dettagli. Che devo fare allora? Domandò Coraline, leggermente spaventata. Non vestirti di verde in camerino, suggerì Miss Pink, e non nominare un certo dramma scozzese, aggiunse Miss Forcible. Coraline si domandò come mai fossero così pochi gli adulti di sua conoscenza che riuscivano a dire cose sensate. A volte si domandava a chi credessero di rivolgersi. E sta molto, molto attenta, disse Miss Pink. Si alzò dalla poltrona e si diresse verso il caminetto. Sulla mensola c'era un piccolo barattolo di vetro. Miss Pink ne tolse il coperchio e cominciò a tirarne fuori degli oggettini: una minuscola anatra di porcellana, un ditale, una strana monetina di ottone, due graffette e un sassolino bucato. Porse il sassolino a Coraline. A che serve? Domandò la bambina. Il buco era proprio al centro del sasso e lo trapassava da parte a parte. Lo sollevò in controluce e ci guardò attraverso. Potrebbe servirti, disse Miss Pink. Funziona contro le cose brutte, a volte. Coraline lo mise nella tasca del cappotto, salutò Miss Pink, Miss Forcible e i cani e uscì. La casa era avvolta in una nebbia impenetrabile. Molto lentamente la bambina si diresse verso i gradini che portavano al suo appartamento, quindi si fermò e si guardò intorno. Con quella nebbia sembrava un mondo di fantasmi. In pericolo, pensò Coraline. Sembrava eccitante, per niente una brutta cosa, proprio per niente. Cominciò a salire le scale, con il suo sassolino ben stretto nel pugno. Coraline di Neil Gaiman, capitolo terzo. Il giorno dopo splendeva di nuovo il sole e Coraline andò con sua madre nella cittadina più vicina per comprare i vestiti per la scuola. Prima accompagnarono alla stazione il padre, che doveva andare a Londra per incontrare delle persone. Coraline lo salutò con la mano. Per comprare i vestiti andarono ai grandi magazzini. Coraline vide un paio di guanti di un verde brillante che le piacquero moltissimo. Sua madre si rifiutò di comprarglieli e diede la precedenza a calzini bianchi, mutande blu marino, quattro camicette grigie e una gonna grigio scuro. Ma mamma, a scuola tutte portano le camicette grigie e anche il resto. I guanti verdi invece non ce li ha nessuno, io potrei essere l'unica. La madre non le prestò la minima attenzione perché stava decidendo con la commessa quale maglioncino prendere per Coraline e le due donne si trovarono d'accordo sul fatto che fosse meglio comprarne uno vergognosamente largo e fuori misura, nella speranza che un giorno ci sarebbe cresciuta dentro. Coraline si allontanò e andò a guardare gli stivali di gomma, tutti a forma di rana, di anatra e di coniglio. Poi tornò da sua madre. Coraline, oh, eccoti qua, dove diamine eri finita? Mi avevano rapito gli extraterrestri, disse Coraline. Sono arrivati dallo spazio con le pistole laser, ma io li ho imbrogliati, mettendomi una parrucca e ridendo con un accento straniero. Poi sono fuggita. Certo, cara, credo che ti servirebbero degli altri fermagli per i capelli, non credi anche tu? No. Beh, diciamo una mezza dozzina, tanto per stare tranquille, disse sua madre. La bambina non disse una parola. In macchina, tornando a casa, Coraline disse: Che cosa c'è nell'appartamento vuoto? Non lo so, niente, immagino, probabilmente assomiglierà al nostro prima che ci andassimo ad abitare. Stanze vuote. Credi che ci si possa entrare dal nostro salotto? No, a meno che tu non riesca a passare attraverso i mattoni, cara. Oh. Arrivarono a casa che era quasi l'ora di pranzo. Nonostante facesse freddo, splendeva un bel sole. La madre di Coraline guardò nel frigo e ci trovò un misero pomodoro e un pezzo di formaggio con della roba verde sopra. Nel contenitore del pane c'era solo una crosta secca. Forse farei meglio a fare una corsa al negozio, a prendere dei bastoncini di pesce o qualcos'altro, disse. Vuoi venire con me? No, rispose Coraline. Fa come ti pare, disse sua madre, e uscì. Poi tornò indietro perché aveva dimenticato il borsellino e le chiavi della macchina, quindi uscì di nuovo. Coraline si annoiava. Sfogliò il libro che stava leggendo sua madre e che parlava degli indigeni di un paese lontano. Pareva che ogni giorno prendessero delle grandi pezze di seta bianca e ci facessero sopra dei disegni con la cera. Poi immergevano la seta nella tintura, quindi ci disegnavano ancora sopra con la cera e la immergevano di nuovo nella tintura. Poi toglievano la cera e mettevano tutto a cuocere nell'acqua bollente. E alla fine gettavano quelle pezze ormai bellissime su un falò per ridurle in cenere. A Coraline sembrava assolutamente privo di senso, ma sperava almeno che quella gente si divertisse. La noia non era ancora passata e sua madre non era ancora rientrata. Coraline prese una sedia e la spinse vicino alla porta della cucina. Ci salì sopra e si protese verso l'alto, inutilmente. Poi Poi scese e andò a prendere una scopa nel ripostiglio, quindi salì di nuovo sulla sedia e si protese verso l'alto il manico della scopa. Scese dalla sedia e raccolse le chiavi. Sorrise trionfante. Poi appoggiò la scopa alla parete e andò in salotto. La famiglia non usava mai quella stanza. Avevano ereditato i mobili dalla nonna di Coraline, insieme a un tavolinetto basso, una console, un pesante portacenere di vetro e il dipinto a olio di una fruttiera. Coraline non era mai riuscita a capire come mai ci fosse gente che aveva voglia di dipingere una fruttiera. Quanto al resto, la stanza era vuota. Niente soprammobili sulla mensola del caminetto, niente statuine né orologi, niente che rendesse quel luogo confortevole e vissuto. La vecchia chiave nera sembrava più fredda di tutte le altre. Coraline la infilò nella toppa, girò senza fare capricci, con un soddisfacente rumore metallico. Coraline si fermò ad ascoltare. Sapeva che stava facendo qualcosa di proibito, così tese l'orecchio per sentire se sua madre stesse tornando, ma non sentì nulla. Poi mise la mano sulla maniglia e la girò, e finalmente la porta si aprì. Si aprì su un corridoio buio. I mattoni erano scomparsi, come se non ci fossero mai stati. Da quel corridoio veniva un agghiacciante odore di stantio, l'odore di qualcosa di molto vecchio e di molto lento. Coraline varcò la soglia. Si domandò che aspetto avesse l'altro appartamento, ammesso che quel corridoio portasse lì. Coraline percorse il corridoio con una certa inquietudine. La moquette su cui camminava era identica a quella di casa loro. La carta da parati era identica a quella che avevano loro. Il quadro appeso nell'ingresso era identico a quello appeso nell'ingresso di casa loro. Sapeva dov'era, a casa sua. Non l'aveva mai lasciata. Confusa, scosse la testa. Fissò il quadro appeso alla parete. No, non era esattamente lo stesso. Il quadro nell'ingresso di casa loro ritraeva un ragazzo con abiti all'antica che fissava delle bolle di sapone, ma ora l'espressione del suo viso era diversa. Osservava le bolle come se avesse in mente di fare qualcosa di veramente perfido, e c'era uno strano sguardo nei suoi occhi. Coraline lo fissò, cercando di capire esattamente cosa avesse di diverso. C'era quasi arrivata quando qualcuno disse: Coraline! Sembrava la voce di sua madre. Coraline andò in cucina perché la voce veniva da lì. In cucina trovò una donna che le dava le spalle. Assomigliava un po' a sua madre, solo che aveva la pelle bianca come la carta, solo che era più alta e più magra, solo che aveva le dita troppo lunghe che non stavano mai ferme e le unghie ad unghie affilate di un rosso scuro. Coraline, disse la donna, sei tu? Quindi si voltò a guardarla. Al posto degli occhi aveva due grossi bottoni neri. È ora di pranzo, Coraline, disse la donna. E tu chi sei? Domandò la bambina. Sono l'altra tua madre, rispose la donna. Vai a dire all'altro tuo padre che il pranzo è pronto. E aprì lo sportello del forno. All'improvviso, Coraline si rese conto di avere una fame da lupi e che odorino meraviglioso. Allora, che aspetti? Coraline arrivò in fondo al corridoio dove si trovava lo studio di suo padre. Aprì la porta. All'interno c'era un uomo seduto alla tastiera del computer che le dava le spalle. Ciao, disse Coraline. Cioè, lei mi ha detto di dirti che è pronto il pranzo. L'uomo si voltò. Al posto degli occhi aveva due grossi bottoni, neri e scintillanti. Ciao, Coraline, disse. Non ci vedo più dalla fame. Si alzò e andò con lei in cucina. Si sedettero intorno al tavolo e l'altra madre di Coraline servì il pranzo. Un enorme dorato pollo arrosto, patate fritte, pisellini verdi. Coraline spazzolò il cibo che aveva nel piatto. Era buonissimo. È da un pezzo che ti aspettiamo, disse l'altro padre di Coraline. Me? Sì, disse l'altra madre. Senza di te qui non era più la stessa cosa, ma sapevamo che un giorno saresti arrivata e che a quel punto saremmo diventati una vera famiglia. Ti va un altro po' di pollo? Era il pollo più buono che Coraline avesse mai mangiato in vita sua. A volte lo faceva anche sua madre il pollo, ma era sempre precotto o surgelato, veniva sempre troppo asciutto e non sapeva mai di niente. Quando cucinava suo padre invece comprava un pollo vero, solo che poi gli faceva delle cose strane come farlo stufare nel vino o riempirlo di prugne o farlo al forno avvolto nella pasta sfoglia. E Coraline si rifiutava di toccarlo per principio. Accettò ancora un po' di pollo. Non sapevo di avere un'altra madre, disse Coraline guardinga. Ma certo, tutti ce l'hanno, disse l'altra madre. con quei bottoni neri che le brillavano al posto degli occhi. Pensavo che dopo pranzo ti sarebbe piaciuto giocare un po' in camera tua con i topi. I topi? Quelli del piano di sopra? Coraline non aveva mai visto un topo se non alla televisione. Quasi quasi non vedeva l'ora, in fin dei conti la giornata si stava rivelando piuttosto interessante. Dopo pranzo i suoi altri genitori lavarono i piatti e Coraline andò in fondo al corridoio dove si trovava la sua altra stanza da letto. Era diversa da quella che aveva a casa, tanto per cominciare era dipinta di una sgradevole tonalità di verde e rifinita di una singolare tonalità di rosa. Coraline decise che non avrebbe voluto dormirci, ma che la combinazione di colori era molto più interessante di quella della sua cameretta. C'erano anche un mucchio di cose straordinarie che non aveva mai visto prima. Angeli con dentro un congegno a molla che fluttuavano nella stanza come passerotti spaventati. Libri con illustrazioni che si contorcevano, strisciavano e luccicavano, piccoli teschi di dinosauro che battevano i denti al suo passaggio, una scatola piena di meravigliosi giocattoli. Qui è meglio, pensò. Guardò fuori dalla finestra. Il panorama era identico a quello che vedeva dalla finestra della sua stanza: alberi, campi e oltre i campi sulla linea dell'orizzonte, lontane colline viola. Una cosa nera attraversò velocissima il pavimento e scomparve sotto il letto. Coraline si mise ginocchioni e guardò. 50 piccoli occhietti rossi le restituirono lo sguardo. Salve, disse Coraline. Siete voi i topi? Uscirono da sotto il letto, battendo le palpebre per la troppa luce. Avevano il pelo corto e nero come la fuliggine, gli occhi piccoli e rossi, le zampette rosa che sembravano minuscole mani, la coda senza peli che assomigliava a un verme lungo e liscio. Sapete parlare? Domandò. Il topo più grosso e più nero le rispose di no, scuotendo la testa. Il suo sorriso aveva un che di sgradevole, pensò Coraline. Bene, domandò. Allora, cos'è che fate? I topi formarono un cerchio, quindi cominciarono a salire uno sull'altro con cautela, ma con molta rapidità, finché non ebbero formato una piramide con in cima il topo più grosso. I topi cominciarono a cantare con voci acute ma sussurrate. Abbiamo tempo. E abbiamo code e abbiamo occhi. Prima che tu cadessi, qui eravamo. Quando tu sarai, noi ci alzeremo. Non era una bella canzone. Coraline era quasi certa di averla già sentita da qualche parte, ma non riusciva a ricordare dove. Quindi la piramide crollò e i topi cominciarono a sgambettare rapidi e neri in direzione della porta. L'altro vecchio pazzo del piano di sopra era fermo sulla soglia con un grande cappello nero fra le mani. I topi gli corsero rapidamente addosso, rintanandosi nelle sue tasche, nella camicia, su per le gambe dei pantaloni, giù per il collo. Il topo più grosso si arrampicò sulle spalle del vecchio, raggiunse i lunghi baffi grigi, quindi passò davanti a quei grossi bottoni neri che erano gli occhi e arrivò in cima alla testa. Pochissimi secondi dopo, l'unica prova che i topi fossero mai stati lì era rappresentata dalle inquiete protuberanze sotto i vestiti dell'uomo, che continuavano a spostarsi da un punto all'altro del suo corpo. E c'era sempre il topo più grosso che da sopra la testa continuava a guardare giù verso Coraline, con i suoi occhietti di un rosso scintillante. Il vecchio si mise il cappello in testa e così scomparve anche l'ultimo topo. Salve Coraline, disse l'altro vecchio del piano di sopra. Ho sentito che eri qui. Per i topi è ora di cena, ma se ti va puoi salire con me e guardare mentre gli do da mangiare. Negli occhi in bottone del vecchio c'era qualcosa di famelico che metteva a disagio Coraline. No, grazie, rispose. Vado fuori a esplorare. Il vecchio annuì molto lentamente. Coraline sentì che i topi bisbigliavano fra loro, ma non riuscì a capire cosa si stessero dicendo. E comunque non era tanto sicura di volerlo sapere. I suoi altri genitori erano fermi sulla soglia della cucina quando lei apparve nel corridoio, con gli stessi identici sorrisi di prima, e la salutarono lentamente con la mano. Divertiti là fuori, le disse la sua altra madre. Noi ti aspettiamo qui, le disse il suo altro padre. Quando Coraline arrivò alla porta di casa, si voltò a guardarli. La stavano ancora fissando e la salutavano e sorridevano. Coraline uscì di casa e scese le scale. Di Neil Gaiman, capitolo 4. Dall'esterno la casa sembrava esattamente come prima, o quasi esattamente come prima. La porta di Miss Pink e Miss Forcible era incorniciata da lampadine rosse e blu che si accendevano e si spegnevano a intermittenza, formando delle parole. e le luci si rincorrevano tutto intorno alla casa, accese, spente, tutto intorno. Strabiliante era seguito da trionfo e poi da teatrale. Era una giornata fredda, ma con un bel sole, proprio come quella di prima. Alle sue spalle ci fu un lieve rumore. Si voltò. Sul muricciolo accanto a lei c'era un grosso gatto nero, identico al grosso gatto nero che aveva visto sui prati di casa. Buon pomeriggio, disse il gatto. La sua voce sembrava quella che Coraline aveva in fondo alla testa, la voce che usava per immaginare delle parole, ma era la voce di un uomo, non di una ragazza. Salve, disse Coraline. Ho visto un gatto uguale a te nel giardino di casa mia. Tu devi essere l'altro gatto. Il gatto fece segno di no con la testa. No, disse. Io non sono l'altro di nessuno, io sono io. E piegò la testa di lato. I suoi occhi verdi luccicavano. Voi persone siete dappertutto. E i gatti dal canto loro devono restare uniti. Non so se mi spiego. Immagino di sì, ma se tu sei il gatto che ho visto a casa, com'è che sai parlare? I gatti non hanno le spalle come gli esseri umani, tuttavia quel gatto fece spallucce, con un lieve movimento che partiva dalla punta della coda e terminava con un crescente vibrare dei baffi. Io so parlare. A casa mia i gatti non parlano. No, disse il gatto. No, ribatté Coraline. Il gatto saltò agilmente dal muricciolo e atterrò sull'erba, accanto ai piedi di Coraline. Poi alzò lo sguardo e la fissò. Beh, l'esperta di queste cose sei tu, disse seccamente il gatto. In fin dei conti, io che ne posso sapere? Sono solo un gatto. E cominciò ad allontanarsi, fiero, a testa e coda alta. Torna qui, gli disse Coraline. Per piacere, ti chiedo scusa, davvero. Il gatto si fermò, si mise a sedere e cominciò a lavarsi con molta cura, come se Coraline non ci fosse. Noi potremmo diventare amici, sai? Disse Coraline. Noi potremmo essere rari esemplari di un'esotica razza di elefanti ballerini africani, disse il gatto. Però non lo siamo, almeno, aggiunse con tono dispettoso, dopo aver lanciato un'occhiata alla bambina. Io non lo sono. Lei sospirò. Per favore, come ti chiami? Domandò al gatto. Senti, io mi chiamo Coraline, ok? Il gatto sbadigliò lentamente e con attenzione, rivelando una bocca e una lingua di un rosa sorprendente. I gatti non hanno nome, disse. No? No, disse il gatto. Voi persone avete il nome, questo perché non sapete chi siete, noi sappiamo chi siamo, perciò il nome non ci serve. Quel gatto era egocentrico in un modo irritante, decise Coraline. Come se si sentisse l'unica creatura importante di qualsiasi mondo o luogo. Una metà di lei voleva essere molto scortese con lui, l'altra metà invece voleva essere cortese e rispettosa. La metà cortese ebbe la meglio. Per favore, che posto è questo? Il gatto si guardò rapidamente intorno. È qui, le rispose. Questo lo vedo. Beh, e tu come ci sei arrivato? Esattamente come te, a piedi, disse il gatto. Così. Coraline lo guardò camminare lentamente sul prato. Raggiunse un albero, ci passò dietro, ma non sbucò dall'altra parte. Coraline si avvicinò al tronco e guardò. Il gatto era scomparso. Tornando verso casa sentì un altro lieve rumore alle sue spalle. Era il gatto. A proposito, disse, è stato saggio da parte tua portare una protezione. Se fossi in te me la terrei ben stretta. Protezione? È quel che ho detto, disse il gatto. E comunque. Si interruppe e fissò intensamente qualcosa che non c'era. Quindi si abbassò a pochi centimetri dal suolo e si mosse lentamente in avanti, facendo due o tre passi. Sembrava che stesse inseguendo un topo invisibile. Di botto girò le spalle e se ne andò, sfrecciando in direzione del bosco. Scomparve fra gli alberi. Coraline si domandò cosa avesse voluto dire. Si chiese anche se da dove veniva lei, i gatti sapessero tutti parlare e avessero semplicemente deciso di non farlo. O se sapessero parlare solo quando si trovavano qui, ovunque fosse questo qui. Scese i gradini di mattone che portavano alla porta di Miss Pink e Miss Forcible. Le luci rosse e blu continuavano ad accendersi e spegnersi a intermittenza. La porta era aperta, ma appena appena. Bussò e la porta si spalancò subito, così Coraline entrò. Si ritrovò in una stanza buia in cui c'era odore di polvere e velluto. La porta si richiuse alle sue spalle e la stanza diventò nera. Coraline avanzò lentamente ed entrò in una piccola anticamera. Il suo viso incontrò qualcosa di morbido, era un panno. Alzò la mano e lo spostò. Battendo le palpebre si ritrovò dall'altra parte delle tende di velluto, in un teatro male illuminato. In un angolo lontano della stanza c'era un alto palcoscenico di legno, vuoto e spoglio, illuminato dall'alto da un fioco riflettore. Diverse poltrone dividevano Coraline dal palcoscenico, file e file di poltrone. Sentì un rumore di passi strascicati e una luce si mosse verso di lei, oscillando di qua e di là. Quando se la ritrovò vicino, si accorse che la luce veniva da una torcia tenuta in bocca da un terrier scozzese nero, con il muso grigio per via dell'età. Salve, disse Coraline. Il cane posò la torcia a terra e guardò la bambina da sotto in su. Bene, fammi vedere il biglietto, le disse burbero. Il biglietto? L'ho appena detto, il biglietto. Mica posso stare qui tutto il giorno, sai. E senza biglietto non puoi assistere allo spettacolo. Coraline sospirò. Non ce l'ho, ammise. Eccone un'altra, disse il cane sconfortato, che entra qua dentro sfacciata come non mai. Dov'è il biglietto? Non ce l'ho. Scosse la testa e poi si strinse nelle spalle. Avanti, su! Il cane raccolse la torcia con la bocca e trotterellando penetrò nel buio. Coraline lo seguì. Arrivato davanti al palcoscenico, il terrier si fermò e illuminò un posto libero. Lei si sedette e il cane lentamente si allontanò. Mentre i suoi occhi si abituavano all'oscurità, si rese conto che tutti gli occupanti delle altre poltrone erano cani. Da dietro le quinte arrivò un sibilo. A Coraline sembrò il rumore di un vecchio disco che gratta mentre lo mettono sul giradischi. Il sibilo si tramutò in un suono di trombe e Miss Pink e Miss Forcible entrarono in scena. Miss Pink era in sella a una bicicletta con una ruota sola e si esibiva in un gioco di destrezza con le palle. Miss Forcible le saltellava dietro, con un cesto di fiori in mano, sparpagliando i petali sul palco. Arrivate sul proscenio, Miss Pink saltò agilmente giù dal monociclo. E le due anziane signore fecero un profondo inchino. Tutti i cani batterono la coda e abbaiarono entusiasti. Coraline applaudì cortesemente. Dopodiché le due donne sbottonarono i loro tondeggianti e lanuginosi cappotti e li aprirono. Ma non furono solo i cappotti a venire aperti. Anche le due vecchie facce si aprirono come conchiglie vuote, e da quei vecchi corpi vuoti, tondi e lanuginosi uscirono due giovani donne. Erano magre, pallide e piuttosto graziose. Con due bottoni neri per occhi. La nuova Miss Pink indossava calze verdi e alti stivali marrone che le coprivano la gamba quasi per intero. La nuova Miss Forcible indossava un abito bianco e aveva dei fiori tra i lunghi capelli biondi. Coraline si appiattì contro lo schienale della sua poltrona. Miss Pink uscì di scena e le trombe emisero lunghi suoni striduli mentre la puntina del grammofono girava nei solchi del disco, che a quel punto venne tolto. Questa è la parte che preferisco. Sussurrò il cagnolino seduto accanto a lei. L'altra Miss Forcible estrasse un coltello da una scatola in un angolo del palcoscenico. È una spada quella che vedo innanzi a me? Domandò. Sì! Gridarono i cani in coro. Lo è! Miss Forcible fece la riferenza e i cani l'applaudirono di nuovo. Questa volta Coraline non si prese il disturbo di battere le mani. Miss Pink tornò in scena. Si batté una mano sulla coscia e tutti i cagnolini abbaiarono. E adesso, disse Miss Pink, Miriam e io abbiamo l'onore di presentare una nuova ed eccitante aggiunta alla nostra rappresentazione teatrale. C'è qualche volontario? Il cagnolino vicino a Coraline le diede un colpetto con la fronte e le sussurrò: Sei tu. Coraline si alzò in piedi e si diresse verso gli scalini di legno del palcoscenico. Potrei avere un bel applauso per la giovane volontaria? Domandò Miss Pink. I cani abbaiarono, guairono e batterono la coda sulle poltrone di velluto. Bene, Coraline, disse Miss Pink. Come ti chiami? Coraline, rispose Coraline. E noi non ci conosciamo, dico bene? Coraline guardò quella giovane donna magra con i neri occhi bottone e scosse la testa, lentamente. E ora, disse l'altra Miss Pink, mettiti qui. E condusse la bambina verso una tavola eretta a un'estremità del palcoscenico, quindi le mise un pallone in testa. Miss Pink si avvicinò a Miss Forcible, le bendò gli occhi bottone su con un foulard nero e le mise il coltello in mano. Quindi la fece girare su se stessa 3 o 4 volte e la fece fermare, rivolta verso Coraline. La bambina trattenne il fiato e strisse fortissimo i pugni. Miss Forcible lanciò il coltello contro il pallone, che scoppiò con un botto. Il coltello rimase conficcato nella tavola poco sopra la testa di Coraline e lì rimase a vibrare. Coraline riprese fiato. I cani impazzirono. Miss Pink offrì a Coraline una piccolissima scatola di cioccolatini e la ringraziò per essere stata così di spirito. La bambina tornò al suo posto. Sei stata bravissima, le disse il cagnolino. Grazie, rispose Coraline. Miss Forcible e Miss Pink cominciarono a fare dei giochi di destrezza con enormi clavi di legno. Coraline aprì la scatola di cioccolatini. Il cagnolino li guardò con grande desiderio. Ne gradisci uno? Gli chiese Coraline. Grazie, volentieri, sussurrò il cane, ma non al torrone, mi fanno venire la bava. Credevo che la cioccolata non facesse molto bene ai cani, disse Coraline, ricordandosi di quel che le aveva detto una volta Miss Forcible. Forse dalle tue parti, sussurrò il cagnolino, qui non mangiamo altro. Al buio, Coraline non riusciva a distinguere i cioccolatini, provò ad assaggiarne uno che risultò essere al cocco. A lei il cocco non piaceva e lo diede al cane. Grazie, disse il cane. Prego, rispose Coraline. Miss Forcible e Miss Pink erano impegnate in un numero. Miss Forcible sedeva su una scala a libretto, mentre Miss Pink era in piedi sotto di lei. Che c'è in un nome? Domandò Miss Forcible. Ciò che chiamiamo rosa avrebbe con qualsiasi nome un profumo altrettanto dolce. Non so dirti chi sono, disse Miss Pink a Miss Forcible. Questa parte finisce presto, sussurrò il cane, poi si esibiranno in una danza popolare. Quanto dura? Domandò Coraline. Il teatro, voglio dire. Tutto il tempo, rispose il cane, in eterno. Tieni, disse lei, ti regalo i cioccolatini. Grazie, disse il cane. Coraline si alzò dalla sua poltrona. A presto, disse il cane. Arrivederci, disse Coraline. Uscì dal teatro e tornò nel giardino. La luce del giorno la costrinse a battere le palpebre. I suoi altri genitori la stavano aspettando nel giardino, l'uno di fianco all'altra, e sorridevano. Ti sei divertita? Le chiese la sua altra madre. È stata interessante, rispose Coraline. E tutti e tre si incamminarono insieme verso l'altra casa di Coraline. L'altra madre le accarezzò i capelli con le sue lunghe dita. Coraline scosse la testa. Non farlo, disse Coraline. L'altra madre ritrasse la mano. Allora, disse il suo altro padre, ti piace qui? Immagino di sì, rispose Coraline. È molto più interessante che a casa. Ed entrarono. Sono felice che ti piaccia, disse l'altra madre, perché amiamo pensare che la tua casa sia questa. Potrai restare per sempre se ti va. Fece Coraline. Si infilò le mani in tasca e ci pensò su. Con i polpastrelli toccava il sassolino che le avevano regalato il giorno prima le vere Miss Pink e Miss Forcible, quello con il buco in mezzo. Se ti va di restare, le disse l'altro padre, dobbiamo solo fare una piccola cosa in modo che tu possa rimanere per sempre. Andarono in cucina. In un piatto di porcellana posato sul tavolo c'erano un rocchetto di cotone nero e un lungo ago d'argento, e accanto ad essi due grossi bottoni neri. Non credo proprio, disse Coraline. Oh, ma noi vogliamo che tu lo faccia, disse l'altra madre. Noi vogliamo che tu rimanga, e questo non è che un dettaglio insignificante. Non sentirai nessun dolore, le disse l'altro padre. Coraline lo sapeva bene, quando i grandi ti dicono che non sentirai nessun dolore, quasi sempre succede il contrario, e scosse la testa. L'altra madre fece un largo sorriso e i suoi capelli si mossero come piante sott'acqua. Noi vogliamo solo il tuo bene, le disse. Mise una mano sulla spalla di Coraline. Lei si virò indietro. Adesso vado, disse, e rimise le mani in tasca. Le dita si strinsero intorno al sassolino con il buco. La mano dell'altra madre si ritrasse dalla spalla di Coraline come un ragno impaurito. Se è quello che desideri, disse. Sì, ribatté Coraline. Ti rivedremo presto, però. Disse il suo altro padre. Quando tornerai qui? Fece Coraline. E allora saremo una vera famiglia unita, disse l'altra madre. Per l'eternità. Coraline indietreggiò, quindi si voltò e a passo svelto andò in salotto e spalancò la porta nell'angolo. Non c'era nessun muro di mattoni, solo il buio, un buio sotterraneo, nero come la notte, che sembrava pieno di cose in movimento. Coraline esitò, si voltò indietro. L'altra madre e l'altro padre si stavano dirigendo verso di lei, tenendosi per mano. La guardavano con i loro neri occhi bottone, o almeno lei pensava che la stessero guardando, ma non poteva esserne sicura. La sua altra madre tese la mano e con un dito bianco le fece un cenno di richiamo, e muovendo le pallide labbra disse senza suono: Torna presto. Coraline fece un respiro profondo e avanzò nel buio, dove strane voci sussurravano e venti lontani fischiavano. Adesso aveva la certezza che nel buio dietro di lei ci fosse qualcosa, qualcosa di molto vecchio e molto lento. Il cuore le batteva così forte che temeva potesse esploderle in petto e chiuse gli occhi davanti al buio. Alla fine urtò contro qualcosa e spaventata aprì gli occhi. Era andata a finire contro una poltrona, nel salotto di casa sua. La porta alle sue spalle era bloccata da grezzi mattoni rossi. Era a casa. Coraline di Neil Gaiman. Capitolo quinto. Coraline chiuse la porta del salotto con la fredda chiave nera. Tornò in cucina, risalì sulla sedia e provò a rimettere il mazzo di chiavi sull'intelaiatura della porta. Dovette fare 4 o 5 tentativi prima di accettare il fatto che non era abbastanza alta, così le appoggiò sul ripiano accanto alla porta. Sua madre non era ancora rientrata. Coraline andò al freezer e prese il filone di pane surgelato che tenevano di riserva nello scomparto inferiore. Si preparò un toast con burro di noccioline e marmellata e beve un bicchiere d'acqua. Poi si mise a aspettare che i suoi genitori rincasassero. Quando arrivò il buio, si preparò una pizza surgelata al microonde. Poi guardò la televisione, domandandosi perché gli adulti si concedessero quei programmi pieni di urla e confusione dove tutti non facevano che strillare. Dopo un po' cominciò a sbadigliare, quindi si spogliò, si lavò i denti e si mise a letto. L'indomani mattina entrò nella stanza dei suoi genitori, ma il letto era intatto e di loro due non c'era traccia da nessuna parte. Per colazione mangiò spaghetti in scatola. Per pranzo mangiò una tavoletta di cioccolato e una mela. La mela era gialla e leggermente raggrinzita, ma era buona e dolce. Per merenda scese da Miss Pink e Miss Forcible. Mangiò 3 biscotti digestivi, un bicchiere di bibita lime e una tazza di tè leggero. La bibita verde era molto interessante, non sapeva affatto di lime. Aveva un gusto vagamente chimico. A Coraline piaceva da impazzire, magari ce l'avesse avuta anche a casa sua. E come stanno i tuoi cari mamma e papà? Le domandò Miss Pink. Scomparsi, disse Coraline. Non li vedo da ieri, sono rimasta sola. Credo che la mia famiglia si sia ridotta a una figlia unica. Via tua madre, che abbiamo ritrovato i ritagli di giornale del Glasgow Empire di cui le avevamo parlato. Quando Miriam gliene ha accennato sembrava che fosse molto interessata. È scomparsa in circostanze misteriose, disse Coraline. E credo che a mio padre sia capitata la stessa cosa. Temo che domani saremo via tutto il giorno, Caroline tesoro, disse Miss Forcible. Andiamo a trovare la nipote di April a Royal Tunbridge Wells. Mostrarono a Coraline un album di foto della nipote di Miss Pink. E poi Coraline tornò a casa. Aprì il suo salvadanaio e fece un salto al supermercato. Comprò 2 grosse bottiglie di bibita lime, una torta al cioccolato e una confezione di mele. Quindi tornò a casa e mangiò tutto per cena. Si lavò i denti e poi andò nello studio di suo padre. Accese il computer e scrisse una storia. La storia di Coraline. C'era una ragazzina che si chiamava Mela e che ballava tanto. Ballò e ballò finché i piedi non le diventarono salsicciotti. Fine. La stampò e spense il computer. Poi fece il disegno di una ragazzina che danzava sotto le parole scritte sul foglio. Si preparò un bagno con troppo bagnoschiuma e la schiuma traboccò dal bordo della vasca, inondando il pavimento. Si asciugò e asciugò il pavimento meglio che poté e poi andò a letto. Coraline si svegliò nel cuore della notte. Andò nella stanza dei suoi genitori, ma il letto era vuoto e intatto. I numeri verdi che brillavano sulla sveglia digitale dicevano 3 e 12. Tutta sola nel bel mezzo della notte, Coraline scoppiò in lacrime. Nell'appartamento vuoto non si sentivano altri rumori. Salì sul letto dei genitori e dopo un po' si riaddormentò. Coraline venne risvegliata da fredde zampette che le toccavano il viso. Aprì gli occhi. 2 occhioni verdi le restituirono lo sguardo. Era il gatto. Salve, disse Coraline. Come hai fatto a entrare? Il gatto non rispose. Coraline scese dal letto, indossava una lunga t-shirt e i pantaloni del pigiama. Sei venuto per dirmi qualcosa? Il gatto si esibì in uno sbadiglio che gli fece brillare di verde gli occhi. Tu lo sai dove sono mamma e papà? Il gatto le rispose con un lento battito di palpebre. Significa sì. Il gatto batté di nuovo le palpebre. Coraline decise che doveva per forza di significare sì. Mi porteresti da loro? Il gatto la guardò fisso, poi uscì nel corridoio e lei gli andò dietro. Il gatto arrivò in fondo al corridoio e si fermò davanti a uno specchio a figura intera. Molto tempo prima lo specchio si trovava all'interno dell'anta di un armadio. L'avevano appeso lì solo dopo il trasloco e sebbene la mamma di Coraline ogni tanto dicesse di volerlo cambiare con uno più nuovo, non l'aveva mai fatto. Coraline accese la luce del corridoio. Lo specchio rifletté il corridoio dietro di lei. Cos'altro poteva aspettarsi di vedere? Ma goffamente riflessi nello specchio c'erano anche i suoi genitori. Sembravano tristi e soli. Mentre Coraline li guardava, la salutarono lentamente con un gesto della mano, senza troppa energia. Il padre di Coraline teneva un braccio attorno alle spalle di sua moglie. La madre e il padre di Coraline guardavano la figlia attraverso lo specchio. Suo padre aprì la bocca e disse qualcosa, ma lei non riuscì a sentire nemmeno una sillaba. Sua madre alitò all'interno dello specchio e rapidamente, prima che la condensa si dissolvesse, scrisse I a tu i a i con il polpastrello dell'indice. La condensa all'interno dello specchio svanì, come pure i suoi genitori. Ora si vedeva solo il riflesso del corridoio di Coraline e del gatto. «Dove sono?» domandò Coraline al gatto. Il gatto non rispose, ma Coraline immaginò la sua voce, secca come una mosca stecchita sul davanzale d'inverno, che diceva «Beh, dove credi che siano?» «Non torneranno più, vero?» disse Coraline. «Non senza l'aiuto di qualcuno». Il gatto si limitò a battere le palpebre. Coraline lo interpretò come un sì. Bene, disse. Allora immagino che ci sia una sola cosa da fare. Entrò nello studio di suo padre e si sedette alla scrivania. Quindi alzò la cornetta, aprì l'elenco telefonico e chiamò il commissariato di zona. Polizia, disse una ruvida voce maschile. Pronto, disse Coraline. Il mio nome è Coraline Jones. Non dovresti essere a letto da un pezzo, signorina? Le disse il poliziotto. Può darsi, disse Coraline, decisa a non lasciarsi fuorviare, ma sto chiamando per denunciare un crimine. E di che crimine si tratterebbe? Rapimento. Rapimento di due adulti, per la precisione. I miei genitori sono stati sequestrati in un mondo che si trova dall'altra parte dello specchio che abbiamo nell'ingresso. E tu sai chi li ha sequestrati? Le domandò il poliziotto. Coraline percepì un sorrisetto nella voce dell'uomo e si sforzò di assumere un tono adulto per costringerlo a prenderla sul serio. Credo che li tenga in pugno la mia altra madre. Forse vuole trattenerli e cucire loro due bottoni neri sugli occhi, oppure potrebbe trattenerli semplicemente per attirarmi di nuovo nelle sue grinfie, non ne sono certa. Ah, le nefande grinfie dei diabolici pugni, disse il poliziotto. Sai cosa ti suggerisco io, signorina Jones? No, disse Coraline. Cosa? Chiedi a tua madre di prepararti la classica vecchia tazza di cioccolata calda e poi di stringerti nel classico vecchio avvolgente abbraccio. Per scacciare gli incubi non c'è niente di meglio di una cioccolata calda e un abbraccio. E se comincia a rimproverarti perché l'hai svegliata a quest'ora della notte, spiegale che te l'ha detto un poliziotto. La sua voce era profonda e rassicurante. Coraline però non si era affatto tranquillizzata. Quando la rivedrò, disse Coraline, glielo dirò. E mise giù il telefono. Il gatto nero, che era rimasto seduto sul pavimento a pulirsi il pelo per tutta la durata della conversazione, si alzò e fece strada lungo il corridoio. Coraline tornò nella sua stanza e si mise la vestaglia azzurra e le pantofole. Poi cercò una torcia sotto il pavimento. Ne trovò una, ma le batterie erano mezzo scariche già da un bel pezzo e la luce che emetteva era ridotta a un pallido alone paglierino. La rimise a posto, trovò una cassetta con dentro le candele di cera bianca che servivano in caso d'emergenza e ne sistemò una nel candeliere. E in ciascuna delle tasche della vestaglia mise una mela. Prese il mazzo di chiavi e tolse dall'anello quella nera. Andò in salotto e guardò la porta. Aveva la sensazione che la porta ricambiasse lo sguardo. Sapeva che era una stupidaggine, ma in fondo sapeva anche che era vero. Tornò dunque nella sua stanza e rovistò nella tasca dei jeans. Trovò il sassolino con il buco in mezzo e se lo mise in tasca. Accese lo stoppino della candela, lo guardò crepitare e poi spandere luce. Quindi prese in mano la chiave nera. Era gelida al tatto. La infilò nella serratura della porta, ma non girava. Quando ero piccola, disse Coraline al gatto, e abitavamo nella nostra vecchia casa molto ma molto tempo fa, papà mi portò a fare una passeggiata nel terreno abbandonato che separava casa nostra dai negozi. In realtà non è che fosse il posto ideale per andare a spasso. Era pieno di cose che la gente aveva buttato via, vecchie cucine a gas, piatti rotti, bambole senza braccia e senza gambe, lattine vuote, bottiglie rotte. Mamma e papà mi fecero promettere di non andarci mai da sola durante le mie spedizioni, perché c'erano troppe cose taglienti e poteva venirmi il tetano e cose così. Ma io continuavo a dire che volevo esplorare quel posto. Così un giorno mio padre si mise i suoi stivaloni marrone e i guanti, poi mi infilò gli stivali, i jeans e un maglione. E andammo a fare un giro. Avremmo camminato per una ventina di minuti. Scendemmo lungo un pendio, fin sotto un canalone dove scorreva un torrente, e di colpo papà mi disse: Coraline, scappa, risali il pendio subito. Me lo disse con un tono severo disperato, così obbedì. Corsi su per il pendio. Mentre correvo qualcosa mi fece male al braccio, ma io non mi fermai. Arrivata in cima alla salita, sentii qualcuno che sfrecciava su per il pendio dietro di me. Era mio padre che correva come un rinoceronte alla carica. Quando mi raggiunse, mi prese in braccio e corremmo oltre la sommità della scarpata. Poi ci fermammo ansimando e cercando di riprendere fiato e guardammo di nuovo in fondo al canalone. L'aria pullulava di vespe gialle. Forse camminando avevamo calpestato un nido in un tronco marcio. Mentre correvo su per la salita, mio padre si era fermato per darmi il tempo di scappare e l'avevano punto, e correndo gli erano caduti gli occhiali. Io ci avevo rimediato una sola puntura sul braccio, lui ben 39 punture su tutto il corpo. Le contammo dopo, facendo il bagno. Il gatto nero cominciò a lavarsi muso e baffi con crescente impazienza. Coraline allungò il braccio verso di lui e gli accarezzò la schiena, la testa e il collo. Il gatto si rialzò, fece qualche passo finché si trovò fuori portata, quindi si rimise a sedere e alzò di nuovo lo sguardo su di lei. Così, disse Coraline, più tardi, sempre quel pomeriggio, mio padre tornò là per riprendersi gli occhiali. Disse che se avesse rimandato di un altro giorno poi non si sarebbe più ricordato il punto esatto in cui gli erano caduti. E poco dopo tornò a casa con gli occhiali sul naso. Disse che non aveva avuto paura mentre era fermo lì con le vespe che lo pungevano e gli facevano male. Mentre mi guardava correre via, perché sapeva che doveva darmi il tempo di scappare, altrimenti le vespe avrebbero inseguito tutti e due. Coraline girò la chiave nella toppa, che scattò con un sonoro clangore. La porta si spalancò. Dall'altra parte non c'era nessun muro di mattoni, solo il buio. Dal corridoio soffiava un gelido vento. Coraline rimase ferma dov'era. E mi disse che non era stato coraggioso restando lì a farsi pungere, disse Coraline al gatto. Non era stato coraggioso perché non aveva avuto paura. Quella era l'unica cosa che potesse fare. Ma quando era tornato a riprendersi gli occhiali sapendo che lì c'erano le vespe, aveva veramente paura. Quello era stato vero coraggio. Mosse il primo passo lungo il corridoio. Sentivo odore di chiuso, di polvere e di umidità. Il gatto avanzava lentamente accanto a lei. E perché mai? Le domandò il gatto, con un tono che rivelava scarso interesse. Perché, disse Coraline, quando hai paura di qualcosa ma la fai comunque, quello è coraggio. La candela gettava enormi, bizzarre ombre tremolanti lungo la parete. Coraline sentì che qualcosa si muoveva nel buio accanto a lei, di lato, non era sicura. Qualunque cosa fosse, sembrava che accordasse il passo con il suo. Ed è per questo motivo che stai tornando nel mondo di lei, allora? Disse il gatto. Perché una volta tuo padre ti ha salvata dalle vespe. Non dire sciocchezze, replicò Coraline. Torna a prenderli perché sono i miei genitori. Se fossi stata io a scomparire, loro avrebbero fatto esattamente la stessa cosa. Ti sei accorto che stai di nuovo parlando? Ma quanto sono fortunato, disse il gatto, ad avere una compagna di viaggio dotata di tanta saggezza e intelligenza. Il suo tono era sarcastico, ma i peli gli si erano drizzati e quella spazzola di coda svettava rigida in aria. Coraline stava per dire qualcosa del tipo scusa o il tragitto non era più breve l'altra volta, quando la candela si spense all'improvviso, come se fosse stata smorzata dalla mano di qualcuno. Ci fu un raspare e un picchiettare, e Coraline sentì che il cuore le batteva forte contro le costole. Tese una mano e una cosa filiforme, come una ragnatela, le sfiorò il viso e le mani. In fondo al corridoio si accese la luce, accecante dopo tutto quel buio. Un po' più avanti, in controluce, c'era una donna. Coraline, tesoro, disse. Mamma, disse lei raggiungendola di corsa, impaziente e sollevata. Tesoro, disse la donna, perché sei scappata via da me? Coraline ormai era troppo vicina per fermarsi e sentì le gelide braccia dell'altra madre stringerla in un abbraccio. Rimase ferma e tremante mentre l'altra madre la teneva stretta. Dove sono i miei genitori? Domandò Coraline. Siamo qui, rispose l'altra madre, con una voce così uguale a quella della sua vera madre, che Coraline fece fatica a distinguerle. Siamo qui, siamo pronti a volerti bene, a giocare con te, a darti da mangiare, a renderti la vita interessante. Coraline si ritrasse e l'altra madre la lasciò andare con riluttanza. L'altro padre, che era rimasto seduto su una poltrona nel corridoio, si alzò in piedi e sorrise. Vieni in cucina, le disse. Preparerò uno spuntino di mezzanotte per tutti noi. Sicuramente ti andrà qualcosa da bere, magari una cioccolata calda. Coraline attraversò il corridoio e raggiunse lo specchio in fondo, dove non si rifletteva altro che una ragazzina in vestaglia e pantofole che rivelava i segni di un pianto recente, i cui occhi erano veri e non erano stati sostituiti da bottoni neri, e e che stringeva saldamente in mano un candeliere con la candela spenta. Guardò la ragazzina riflessa nello specchio e lei le restituì lo sguardo. Sarò coraggiosa, pensò Coraline. Anzi, io sono coraggiosa. Posò la candela sul pavimento e si voltò. L'altra madre e l'altro padre la guardavano con occhi famelici. Non mi serve nessuno spuntino, disse Coraline. Mi sono portata una mela, vedete? E tirò fuori una mela dalla tasca della vestaglia. Quindi le diede un morso con gusto e un entusiasmo che in realtà non provava. L'altro padre fece la faccia delusa. L'altra madre sorrise, mettendo in mostra una fila di denti, e ogni dente era leggermente troppo lungo. Le luci del corridoio facevano brillare i neri occhi bottone. Non mi mettete mica paura, disse Coraline, benché la spaventassero eppure tanto. Rivoglio indietro i miei genitori. Sembrava che il mondo brillasse debolmente ai margini del buio. Che posso averci mai fatto coi tuoi vecchi genitori? Se ti hanno abbandonata, Coraline, sarà perché gli eri venuta a noia o li avevi stancati. A me però non verrai mai a noia, non ti abbandonerò mai. Qui con me sarai sempre al sicuro. I neri capelli dell'altra madre, che parevano bagnati, fluttuavano da tutte le parti come i tentacoli di una creatura degli abissi. Non gli ero affatto venuta a noia, disse Coraline. Stai mentendo, li hai rubati tu. Sciocca, sciocca, Coraline. Loro stanno bene dove sono. Coraline si limitò a guardare in cagnesco l'altra madre. E te lo dimostrerò, disse l'altra madre, passando le sue lunghe e bianche dita sulla superficie dello specchio. Lo specchio si appannò, come se un drago ci avesse alitato sopra, e poi si schiarì di nuovo. Nello specchio si era già fatto giorno. Coraline stava guardando il corridoio che correva dalla porta d'ingresso. La porta si aprì dall'esterno e entrarono la madre e il padre di Coraline, con le valigie in mano. È stata proprio una bella vacanza, disse il padre di Coraline. Che bello esserci liberati di Coraline, disse sua madre, con un sorriso di felicità. Adesso potremmo fare tutto quello che abbiamo sempre desiderato, come andare all'estero, ma che non abbiamo mai potuto fare perché avevamo una figlia piccola. E, aggiunse suo padre, mi consola moltissimo sapere che la sua altra madre si prenderà cura di lei meglio di quanto avremmo mai potuto fare noi. Lo specchio si appannò di nuovo, quindi si schiarì e rifletté un'altra volta la notte. Capito? Disse l'altra madre. No, disse Coraline, non capisco niente e nemmeno ci credo. Sembrava che quanto aveva appena visto non fosse vero, ma il suo tono sicuro non corrispondeva affatto a ciò che provava. In lei si era insinuato un piccolo dubbio, come un verme dentro una mela. Quindi alzò gli occhi e vide l'espressione sul volto dell'altra madre, un lampo di autentica ira che le attraversò il viso come il lampo di un temporale estivo. E in cuor suo, Coraline ebbe la certezza che la scena nello specchio era solo un'illusione. Coraline si mise a sedere sul divano e mangiò la sua mela. Ti prego, disse l'altra madre, non fare la difficile. Entrò nel salotto e batté due volte le mani. Si sentì un fruscio e apparve un ratto nero. L'animale alzò lo sguardo verso di lei. Portami la chiave, gli ordinò. Il ratto squittì, poi varcò di corsa la porta aperta che conduceva nell'appartamento di Coraline. Il ratto tornò trascinandosi dietro la chiave. Come mai voi non avete la vostra chiave da questa parte? Domandò Coraline. Perché c'è una sola e una sola porta, disse l'altro padre. Shh! Fece l'altra madre. Non devi turbare la testolina della nostra cara Coraline con queste sciocchezze. Infilò la chiave nella toppa e girò. La serratura resistette, ma poi si chiuse con uno scatto metallico. L'altra madre lasciò cadere la chiave nella tasca del suo grembiule da cucina. Fuori, il cielo aveva cominciato a tingersi di un grigio luminescente. Se non vogliamo fare nessuno spuntino di mezzanotte, disse l'altra madre, abbiamo comunque bisogno del nostro sonno di bellezza. Io me ne torno a letto, Coraline, e ti raccomando caldamente di fare lo stesso. Mise le lunghe e bianche dita sulle spalle dell'altro padre e lo guidò fuori della stanza. Coraline raggiunse la porta nell'angolo estremo del salotto, cercò di aprirla a strattoni, ma era chiusa saldamente. Anche la porta della stanza dei suoi altri genitori era chiusa. Era stanca, certo, ma non aveva nessuna intenzione di dormire in camera sua. Non voleva dormire sotto lo stesso tetto dell'altra madre. La porta di casa non era chiusa a chiave. Coraline uscì nella luce dell'alba e scese i gradini di pietra. Si sedette sul primo gradino in fondo alle scale. Era ghiacciato. Sentì qualcosa di peloso premerle sul fianco con un movimento subdolo e mellifluo. Coraline fece un salto, poi tirò un sospiro di sollievo quando capì di che cosa si trattava. Ah, sei tu, disse al gatto nero. Lo vedi? Ribatté il gatto. Non è stato così difficile riconoscermi, no? Anche senza nomi. Beh, se avessi voluto chiamarti. Il gatto arricciò il naso e riuscì ad assumere un'espressione di indifferenza. Mettere un nome ai gatti, riverò a Coraline, è un'attività alquanto sopravvalutata, tanto varrebbe mettere il nome a una tromba d'aria. E se fosse l'ora di cena? Gli domandò a lei. Allora non vorresti che ti chiamassero? Naturalmente, disse il gatto, ma basterebbe semplicemente gridare la cena, non c'è nessun bisogno dei nomi. Perché quella mi vuole? Domandò Coraline al gatto. Perché vuole che resti qui con lei? Vuole qualcosa a cui voler bene, immagino, le rispose il gatto. Qualcosa che non sia lei stessa. E forse vuole anche qualcosa da mangiare. È difficile stabilirlo con creature di quel genere. Hai qualche consiglio da darmi? Gli domandò Coraline. Il gatto aveva l'espressione di chi sta per dire qualcosa di sarcastico, poi mosse i baffi e disse: Sfidala, non c'è nessuna garanzia che giochi pulito, ma quelli come lei amano i giochi e le sfide. Chi sono quelli come lei? Domandò Coraline. Ma il gatto non rispose, si limitò a stiracchiarsi beatamente e poi cominciò a allontanarsi. A un certo punto si fermò, si voltò e disse: Se fossi in te, entrerei in casa, cerca di dormire, ti aspetta una giornata molto lunga. E il gatto scomparve. Tuttavia, si rese conto Coraline, aveva ragione lui. Rientrò furtivamente nella casa silenziosa, passò davanti alla porta chiusa della stanza da letto, dietro la quale l'altra madre e l'altro padre. Cosa facevano? Si domandò. Dormivano? Aspettavano? E poi le venne in mente che se avesse aperto la porta avrebbe trovato la stanza vuota, anzi, più precisamente, che quella era una stanza vuota e che sarebbe rimasta vuota fino all'esatto momento in cui lei avrebbe aperto la porta. In un certo senso così diventava tutto più facile. Coraline entrò nella parodia rosa e verde della sua stanza, chiuse la porta e la bloccò con la scatola dei giocattoli. Non avrebbe di certo impedito a nessuno di entrare, ma il rumore che avrebbero fatto se avessero tentato di spostarla l'avrebbe certo svegliata, o così sperava. I giocattoli nella scatola dormivano quasi tutti, ma si girarono nel sonno e mormorarono qualcosa, quindi si riaddormentarono. Coraline controllò sotto il letto per vedere se ci fossero i ratti, ma non c'era niente. Si tolse la vestaglia e le pantofole, si mise a letto e si addormentò, senza avere il tempo di riflettere su cosa intendesse dire il gatto quando aveva parlato di una sfida. Coraline di Neil Gaiman, capitolo sesto. Coraline venne svegliata dal sole di metà mattina che le illuminava il viso. Per un istante si sentì profondamente scombussolata. Non capiva dove si trovasse, non era nemmeno del tutto sicura di chi fosse. È sorprendente come ciò che siamo possa dipendere dal letto in cui ci risvegliamo al mattino, ed è sorprendente quanto tutto ciò possa rivelarsi fragile. C'erano volte in cui Coraline dimenticava chi fosse, quando sognava a occhi aperti di esplorare l'Artico o la foresta pluviale amazzonica o l'Africa più ignota. E solo quando qualcuno le batteva la mano sulla spalla o la chiamava per nome, lei tornava con un sussulto da un milione di miglia di distanza e in una sola frazione di secondo doveva ricordarsi chi era e come si chiamava e che si trovava proprio lì. Adesso aveva il sole in faccia ed era Coraline Jones. Sì. E a quel punto il rosa e il verde della stanza in cui si trovava e il fruscio di una grande farfalla di carta dipinta che svolazzava verso il soffitto battendo le ali, le dissero che si era svegliata. Scese dal letto. Giunse alla conclusione che non poteva indossare pigiama, vestaglia e pantofole durante il giorno, anche se sarebbe stata costretta a indossare i vestiti dell'altra Coraline. Esisteva un'altra Coraline? No, decise che non esisteva, esisteva lei e basta. Nell'armadio però non c'erano dei veri vestiti. E comunque non del genere che le sarebbe piaciuto trovare nell'armadio di casa sua. Uno sbrindellato costume da strega, un costume da spaventapasseri tutto toppe, un costume da guerriero del futuro ornato di piccole luci che scintillavano, accendendosi e spegnendosi a intermittenza, un attillato abito da sera pieno di piume e lustrini. Alla fine, in un cassetto, trovò un paio di jeans neri, che sembravano fatti di notte vellutata, e un maglione grigio del colore del fumo denso, con delicate e minuscole stelle di tessuto luccicante. Indossò jeans e maglione, poi calzò un paio di stivali arancione brillante che trovò in fondo all'armadio. Dalla tasca della vestaglia prese l'ultima mela e poi, sempre dalla stessa tasca, il sassolino con il buco. Si mise il sassolino nella tasca dei jeans e si sentì la testa leggermente più libera, come se fosse uscita da una specie di nebbia. Andò in cucina, ma la trovò deserta. Eppure aveva la certezza che nell'appartamento ci fosse qualcuno. Raggiunse lo studio in fondo al corridoio e scoprì che era occupato. «Dov'è l'altra madre?» domandò all'altro padre, che era seduto dietro una scrivania identica a quella del suo padre vero. Lui però non stava facendo assolutamente niente. Non stava nemmeno leggendo i cataloghi di giardinaggio che leggeva suo padre quando faceva finta di lavorare. «Fuori», le rispose lui, «a riparare le porte. Ci sono problemi con i parassiti». Sembrava che gli facesse piacere avere qualcuno con cui scambiare una parola. «I ratti, intendi dire?» «No, i ratti sono nostri amici. Si tratta di quell'altro, quel grosso coso nero con la coda dritta». «Il gatto, vuoi dire?» «Esattamente», disse l'altro padre. Oggi assomigliava meno al suo vero padre. Il viso era leggermente gonfio, come la pasta del pane che comincia a lievitare, spianando bozzi, crepe e buchi. A dire il vero, quando lei non c'è, non dovrei parlare con te, disse. Ma stai tranquilla, non andrà via tanto spesso. Ti dimostrerò quanto siamo amorevolmente ospitali, così non ti verrà più in mente di andartene. Chiuse la bocca e incrociò le braccia sul ventre. «E allora, adesso che devo fare?» domandò Coraline. L'altro padre si portò un dito alle labbra. Silenzio. «Se non mi parli nemmeno», disse Coraline, «esco a esplorare». «Inutile», disse l'altro padre. «Non esiste altro luogo che questo. E l'ha creato lei, la casa, il prato e la gente nella casa. L'ha creato e si è messa ad aspettare». Poi prese un'espressione imbarazzata e di nuovo si portò un dito alle labbra, come se avesse detto anche troppo. Coraline uscì dallo studio, entrò in salotto, si diresse verso la vecchia porta, la tirò, la strattonò, la scosse. Niente, era ben chiusa e la chiave ce l'aveva l'altra madre. Lanciò un'occhiata intorno alla stanza. Era così familiare e fu proprio questo a farla sentire tanto strana. Tutto era esattamente come se lo ricordava. I mobili di sua nonna con il loro strano odore, il dipinto con la frutiera, un grappolo d'uva, due prugne, una pesca e una mela, appeso alla parete. Il basso tavolinetto di legno con i piedi di leone, il caminetto vuoto che sembrava risucchiare il calore della stanza. Ma c'era dell'altro, qualcosa che non ricordava di aver mai visto prima. Una sfera di cristallo sopra la mensola del caminetto. Si avvicinò in punta di piedi e la tirò giù. Era un globo con la neve, con due minuscole figure dentro. Coraline lo agitò e smosse la neve, neve immacolata che scintillava vorticando nell'acqua. Rimise il globo al suo posto e riprese a cercare i suoi veri genitori e una via d'uscita. Uscì dall'appartamento, oltrepassò la porta con le luci, dietro la quale le altre Miss Pink e Miss Forcible portavano ininterrottamente avanti il loro spettacolo. E prese la strada del bosco. Una volta tra gli alberi non si vedeva altro che il prato e il vecchio campo da tennis. Qui il bosco continuava e gli alberi diventavano più spogli. E più avanti si andava, meno sembravano alberi. Ben presto ebbero un aspetto molto approssimativo, più simili a un'idea di albero che a una pianta vera. Un tronco grigio-marrone con sopra una macchia verdastra che rappresentava le foglie. Coraline si domandò se l'altra madre non fosse interessata agli alberi o se semplicemente non si fosse impegnata più di tanto nel creare questa parte del bosco perché non si aspettava che qualcuno si prendesse la briga di spingersi fin là. Continuò a camminare e poi si alzò la foschia. Non era umida come una normale nebbia, non era né fredda né calda. A Coraline sembrava di camminare nel nulla. «Sono un'esploratrice», pensò. E devo trovare tutte le possibili vie di fuga, così continuerò a camminare. Il mondo che stava attraversando era un pallido nulla, come un foglio di carta bianco o un'enorme stanza bianca e vuota. Non c'era temperatura, né odore, né consistenza, né sapore. Di certo non è foschia, pensò Coraline, pur non sapendo bene cosa fosse. Per un istante ebbe il dubbio di essere diventata cieca. Ma no, riusciva benissimo a vedere se stessa, chiara come il giorno. Sotto i suoi piedi non c'era la terra, solo un biancore latteo e brumoso. Che cosa credi di fare? Disse una sagoma al suo fianco. I suoi occhi ci misero un po' per metterla a fuoco, Al principio pensò che fosse una specie di leone a una certa distanza da lei, poi pensò che fosse un topo vicino a lei e poi capì di che cosa si trattava. Sto esplorando, disse Coraline al gatto. Il gatto aveva i peli dritti e gli occhi sgranati e teneva la coda bassa tra le zampe. Non sembrava un gatto felice. Brutto posto, disse il gatto. Sempre che ti sembri il caso di chiamarlo posto, a me no. Che ci fai tu qui? Sto esplorando. Qui non c'è niente da trovare, disse il gatto. Questo è solo il fuori, la parte che lei non si è presa il disturbo di creare. Lei? Quella che dice di essere la tua altra madre, disse il gatto. Che cos'è lei? Domandò Coraline. Il gatto non rispose. Si limitò a procedere lentamente al fianco di Coraline nella pallida foschia. Qualcosa cominciò a delinearsi davanti a loro, qualcosa di alto e nero. Ti sbagliavi, disse Coraline al gatto. Qualcosa c'è. E nella foschia prese subito forma una casa scura che si stagliava davanti ai loro occhi nell'informe biancore. Ma quella, disse Coraline, la casa da cui sei appena uscita, le confermò il gatto, precisamente. Forse ho semplicemente girato in tondo nella foschia, disse Coraline. Il gatto arricciò la punta della coda, formando un punto interrogativo, e inclinò la testa di lato. Forse tu, disse, di certo non io. Ma come puoi allontanarti da qualcosa e poi ritrovartici davanti? Facile, disse il gatto. Pensa a qualcuno che gira intorno al mondo. Si comincia allontanandosi da un punto al quale poi si finisce col ritornare. Piccolo il mondo, disse Coraline. Abbastanza grande per lei, disse il gatto. Le ragnatele devono essere sufficientemente grandi per catturare le mosche. Coraline rabbrividì. Lui ha detto che sta sistemando tutti i cancelli e le porte, disse al gatto, per tenerti fuori. Che ci provi? Disse il gatto con indifferenza. Ah sì, che ci provi. Adesso si trovavano accanto alla casa, sotto un gruppetto di alberi che sembravano molto più verosimili. Ci sono vie d'entrata e vie d'uscita di cui lei nemmeno immagina l'esistenza. Questo posto l'ha fatto lei, allora? Chiese Coraline. Fatto, trovato, che differenza fa? Le domandò il gatto. In un caso o nell'altro lo possiede da tantissimo tempo. Aspetta un attimo. E il gatto venne percorso da un fremito, quindi fece un salto, e prima che Coraline battesse ciglio era di nuovo seduto e con una zampa bloccava un grosso ratto nero. I ratti non mi piacciono comunque, disse il gatto in tono colloquiale, come se nulla fosse successo. Ma in questo posto sono tutte spie al suo servizio. Lei li usa come se fossero le sue mani e i suoi occhi. E detto ciò, il gatto liberò la sua preda. Il ratto corse per circa un metro e poi il gatto con un solo balzo gli fu sopra e lo colpì con gli artigli di una zampa, mentre con l'altra lo teneva fermo. Adoro questa parte della faccenda, disse con tono soddisfatto. Vuoi che te la mostri di nuovo? No, disse Coraline. Perché lo fai? Così lo torturi. Fece il gatto, quindi lasciò libero il ratto. Quello incespicò, stordito, poi si mise a correre. Con un colpo di zampa il gatto lo fece volare in aria, afferrandolo con la bocca mentre cadeva. Smettila! Gridò Coraline. Il gatto fece cadere a terra il ratto fra le sue zampe anteriori. C'è chi afferma, disse il gatto con un sospiro e in tono eccessivamente soave, che i gatti abbiano la spietata tendenza a giocare con la propria preda. Però, in fin dei conti, ci sono gatti che ogni tanto permettono al loro occasionale e simpatico spuntino di scappare. Tu con quale frequenza ti lasci sfuggire la cena? Quindi prese in bocca il ratto e lo portò nel bosco dietro a un albero. Coraline rientrò in casa. Tutto era silenzioso, vuoto e deserto. Persino i suoi passi sulla moquette sembravano far rumore. I granelli di polvere erano sospesi in uno spiraglio di luce solare. In fondo al corridoio c'era lo specchio. Coraline poteva vedere se stessa camminare verso di esso. E il suo riflesso le sembrava un po' più coraggioso di quanto lei stessa non si sentisse. Nello specchio non c'era altro, solo una bambina in un corridoio. Una mano le toccò la spalla e lei alzò lo sguardo. L'altra madre guardò Coraline dall'altro con i suoi grossi e neri occhi bottone. Coraline, tesoro mio, disse. Pensavo che forse avremmo potuto fare qualche gioco insieme, ora che sei tornata dalla tua passeggiata. Campana? Monopoli? Carte? Tu nello specchio non c'eri, disse Coraline. L'altra madre sorrise. Degli specchi, disse, non bisogna mai fidarsi. Allora, a che gioco giochiamo? Coraline scosse la testa. Con te non ci voglio giocare, disse. Io voglio tornare a casa e stare insieme ai miei veri genitori. Voglio che tu li lasci liberi, che ci lasci liberi tutti. L'altra madre scosse la testa molto lentamente. Più pungente del dente di una serpe, disse, è l'ingratitudine di una figlia. Tuttavia, l'amore può piegare anche l'animo più orgoglioso. E le sue lunghe e bianche dita si mossero accarezzando l'aria. Io non ho in programma di volerti bene, disse Coraline. Sia quel che sia, non puoi mica costringermi a volerti bene. Parliamone, disse l'altra madre, voltandosi ed entrando nel salotto. Coraline le andò dietro. L'altra madre si sedette sul grande sofà. Prese una borsetta marrone, che era posata di lato al divano, e ne estrasse un bianco frusciante sacchetto di carta. Quindi tese il sacchetto verso Coraline. Ne vuoi uno? Domandò in tono cortese. Aspettandosi di trovarci dei bonbon, Coraline guardò nel sacchetto, piano a metà. Dentro c'erano grossi e lucidi scarafaggi che strisciavano uno sopra l'altro nel tentativo di uscire. No, disse Coraline, non ne voglio nessuno. Contenta tu, disse l'altra madre. Con molta attenzione scelse uno scarafaggio particolarmente grosso e nero, gli strappò le zampe, che fece cadere ordinatamente in un grosso posacenere di vetro posato sul tavolinetto basso, e se lo mise in bocca, quindi lo sgranocchiò felice. Squisito, disse, e ne prese un altro. Tu sei matta, disse Coraline, matta, cattiva e strampalata. È così che ti rivolgi a tua madre? Le domandò l'altra madre con la bocca piena di scarafaggi. Tu non sei mia madre, ribatté Coraline. L'altra madre ignorò questo commento. Credo che tu ti sia un po' sovreccitata, Coraline. Oggi pomeriggio potremmo ricamare un po' oppure dipingere qualche acquarello. Poi ceneremo e dopo, se avrai fatto la brava, potrai giocare con i ratti prima di andare a letto. E io ti leggerò una storia e ti rimboccherò le coperte e ti darò il bacio della buonanotte. Le sue lunghe e bianche dita fluttuavano delicatamente come una farfalla stanca e Coraline rabbrividì. No, disse. L'altra madre sedeva sul divano. La sua bocca disegnava una linea retta, interrotta da una smorfia. Si infilò tra le labbra un altro scarafaggio e poi un altro ancora, come se tenesse in mano un sacchetto di uva passa ricoperta di cioccolato. I suoi grossi e neri occhi bottone guardavano dritto negli occhi nocciola di Coraline. I capelli neri e lucidi le svolazzavano sul collo e sulle spalle, come se stesse soffiando un vento che Coraline non poteva né sentire né percepire. Si fissarono negli occhi per oltre un minuto. Poi l'altra madre disse: Educazione! Richiuse il sacchetto di carta bianca con molta cura, in modo che nessuno scarafaggio potesse scappare, e lo rimise nella borsa. Quindi si tirò su e su e su. Sembrava più alta di quanto Coraline ricordasse. Infilò una mano nella tasca del grembiule e ne estrasse la chiave nera, che guardò con aria aggrondata e poi gettò nella borsetta. Quindi tirò fuori una minuscola chiave argentata e la sollevò con fare trionfante. Ecco qua, disse. Questa è per te, Coraline. Per il tuo stesso bene, perché io ti voglio bene. Per insegnarti le buone maniere e l'educazione che distingue l'uomo, in fin dei conti. Ricondusse Coraline nel corridoio, avanzando verso lo specchio che era in fondo. Quindi infilò la minuscola chiave nell'intelaiatura dello specchio e girò. Lo specchio si aprì come una porta, rivelando uno spazio buio. Potrai uscire di qua solo quando avrai imparato un po' di buone maniere, le disse l'altra madre, e quando sarai pronta a diventare una figlia adorabile. Tirò su Coraline e la spinse nell'oscuro spazio dietro lo specchio. Un frammento di scarafaggio pendeva dal labbro inferiore dell'altra madre e i suoi neri occhi bottone erano del tutto inespressivi. Quindi richiuse la porta specchio, lasciando Coraline al buio.